i mercati lavorano molto spesso non sull'economia reale, ma purtroppo lei spesso all'inizio diceva che probabilmente la speculazione c'entra poco, invece credo che sia purtroppo in questo momento l'artefice della situazione che si sta verificando. E non a caso, facendo riferimento all'Italia, gli spread, i differenziali sono saliti in maniera molto, molto importante, siamo a rendimenti decennali già vicino al 4,70%. Le aste di ieri hanno fatto capire che si collocano bene i titoli, sì, però a condizioni sempre più gravose. Di conseguenza, cosa fa capire la speculazione? Fa capire una cosa importantissima, che probabilmente anche l'Italia avrà bisogno di una nuova manovra, sic stantibus rebus, cioè se continua questa situazione di non crescita dell'economia, se entrate fiscali non saranno importanti, il rapporto deficit-PIL rischia di rimanere su livelli più alti di quelli che si presumeva nel 2011. Quindi sicuramente la speculazione ha tantissimi difetti perché cede nel pessimismo, però e dà un segnale importantissimo che secondo me è quello di mettere sull'avviso il governo che forse un'altra manovra è necessaria.